Che cos'è la materia? Paolo Francesca. Sicché la fisica studierebbe la materia. Ma che cosa è la materia? Di che cosa è fatta? Tutte le cose che vediamo, tocchiamo, sono fatte di materia, almeno così ci dicono. Già, ma io voglio sapere di che cosa è fatta la materia, non le cose. Non lo so, forse ce lo diranno a scuola. Proviamo intanto a farlo noi. Tanto per cominciare, esiste una sola materia o ce ne sono tante? La materia di un albero è la stessa di quella di un bicchiere o di una coscia di pollo? Penso che siano diverse. E allora perché le chiamiamo con uno stesso nome? Materia? Ma le chiamiamo anche con nomi diversi, legno, vetro, carne. Già, e poi ci dicono che il legno, il vetro, la carne sono materia. Forse perché hanno qualcosa in comune. Sì, ma che cosa? La materia, appunto, ma noi non sappiamo che cos'è, o come dici tu, di che cosa è fatta. Per ora sappiamo solo che hanno in comune una parola. Ma se c'è la parola vuol dire anche che c'è una cosa che le corrisponde. Forse, chissà.